Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Benvenuti, bentornati, sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. Io sono Caterina, sempre con voi, con Antonella Cortese. Ciao Antonella e buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Iniziamo subito dalla rassegna stampa ragionata delle nostre notizie principali sul carcere e non solo. E leggo questa notizia dal Manifesto, a firma di Carlo Lania: Cartabia, l'antisemitismo aumenta in Italia e in Europa. Eh sì, perché il vento di antisemitismo, come ha detto la ministra Marta Cartabia denunciando questo enorme problema, è tornato a soffiare e non solo in Italia ma in tutta Europa. È un vento velenoso e sempre più forte, come si capisce anche dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali, che per il solo 2020 ha registrato 3.520 casi di antisemitismo, 1.000 in più di quelli stimati, e di questi 101 sono avvenuti soltanto in Italia, ha spiegato la ministra. Quindi nel mirino di chi insulta, quasi sempre anche nascosto dietro un PC, ci sono però anche persone rom, musulmani, migranti, e gli ebrei sono le minoranze più spesso bersaglio dei discorsi di odio, avverte appunto la ministra Cartabia. Forse vi ricorderete in merito la notizia veramente allarmante uscita qualche giorno prima della giornata della memoria, il 27 gennaio scorso, quando sui giornali italiani si parlò appunto del caso di due ragazzine dodicenni che avevano insultato un bambino perché ebreo nella provincia di Livorno. Un fatto anche ritenuto dalla sindaca della stessa città molto molto grave. È un fatto sconvolgente davvero. Senti, però in che occasione ha toccato questo tema la ministra della giustizia? Guarda, lo ha fatto di fronte alla Commissione straordinaria per il contrasto a razzismo e antisemitismo presieduta dalla senatrice Liliana Segre, che come sapete è poi di origine ebraica. E dalle parole della ministra si capisce come il nostro orientamento sia quantomeno insufficiente, l'orientamento penitenziario, per contrastare reati di odio come la propaganda, l'incitamento alla discriminazione razziale, religiosa o di genere. Del resto anche i numeri, Antonella, parlano chiaro. In 5 anni, dal 2016 al primo semestre del 2021, i procedimenti contro questi reati di odio sono stati non più di 300, spiega la ministra Cartabia, concentrati nei distretti giudiziari del nord e delle città, in particolare di Roma e di Milano. Nell'80% dei casi si concludono con un'archiviazione, quindi con nulla di fatto, e nei pochi casi di rinvio a giudizio prevale la condanna sul 40% di questi casi. Il resto si conclude con assoluzione o al non doversi procedere. Senti Caterina, la cosiddetta piramide d'odio, che parte da offese verbali, come spesso succede, ma può degenerare in aggressioni fisiche, molestie sessuali, violenza e anche morte. Che cosa sta producendo in Europa? Come ci si sta muovendo? Guarda, c'è stato qualche segnale positivo proprio a partire da questo febbraio. Il 4 febbraio si sono incontrati i ministri della giustizia dell'Unione Europea riuniti a Lille e hanno valutato la possibilità di modificare l'ex articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione per inserire anche l'incitamento all'odio tra i reati di rilevanza europea, al pari del terrorismo e della tratta degli esseri umani e della corruzione. La strada però per fare tutto questo è veramente in salita. È complesso modificare un articolo, cioè, tanto per cominciare, anche se nel 2008 l'ordinamento europeo stabilisce che le manifestazioni di razzismo e xenofobia devono essere punite con sanzioni penali efficaci, gli stati membri hanno adeguato le norme nazionali senza alcun coordinamento. E poi a complicare le cose ci sono i passaggi necessari per arrivare alla modifica dell'articolo, una procedura che prevede, oltre al passaggio dal Parlamento europeo, soprattutto il voto unanime dal parte del Consiglio d'Europa. Quindi sarà veramente una strada complicata. Senti, ma per quanto riguarda l'odio online, i famosi hater, si sta facendo qualcosa? Guarda, il principio alla base della normativa europea nei servizi digitali è chiaro. Ciò che è illecito offline, quindi nella vita reale, deve essere illecito anche online. E vi è, pertanto, ha proseguito la ministra, la necessità di collaborare con le piattaforme online perché il tema dei discorsi di odio si tende proprio a esasperare su queste piattaforme. Infatti al vertice di Lille si è interloquito anche con le principali piattaforme, tra cui Google, Meta, mentre Twitter, che è la più, diciamo, una tra le più famose anche, non si è presentata per sviluppare azioni integrate per contrastare i discorsi di odio. Ma alla fine prevale sempre un atteggiamento culturale, e questo l'ha riconosciuto anche la ministra Cartabia, perché per contenere questo tipo di fenomeni, oltre al diritto penale, naturalmente serve educare, prevenire e riparare. Scriveteci cosa ne pensate, redazione Libri Dentro, @gmail.com. Restiamo con la nostra playlist sui Le voci per la libertà di Amnesty International. Ascoltiamo Ine Gramaro, Dalle mie parti, e ci rivediamo tra pochissimo. Dalle mie parti si parla poco, dalle mie parti si vive meno, dalle mie parti. Dalle mie parti è testa alta, che se la passi per loro è fatta, dalle mie parti. Dalle mie parti chi crede in Dio deve provare in quale Dio lo... Dalle mie parti non si ha più pane, dalle mie parti c'è solo fine se solo parti. Dalle mie parti me ne vado io. E rieccovi sempre su Liberi Dentro e Euradio TV, ritorniamo alle notizie principali della nostra rassegna stampa parlando, non può mancare Antonella, l'ambiente, vero? Eh no, l'ambiente in realtà fa parte un poco di una delle nostre mission, che ormai insomma penso sia all'attenzione di tutti. E l'8 febbraio 2022 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge che introduce la tutela dell'ambiente e della biodiversità nella Costituzione, dopo che era già stato approvato al Senato due volte. Con quest'ultimo passaggio, avvenuto con 468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti, tutti di Fratelli d'Italia, la norma che tutela la natura è ora definitiva, senza bisogno di passare per un referendum popolare. Tale modifica costituzionale diventerà vigente, insomma, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come succede per tutto il resto. E se si pensa alle modifiche costituzionali mai passate, questa è veramente epocale come notizia, no? Sì, Caterina, è epocale perché è una cosa che non è mai successa fino ad oggi. Tieni presente che le modifiche a quella parte di Costituzione denominata principi fondamentali era sempre stata sottratta a ogni ipotesi di riforma. A partire da una nota sentenza della Corte Costituzionale del 1988 si è sempre detto che vi fosse un nocciolo duro di valori costituzionali immodificabili e che tra questi vi rientrassero quantomeno i primi 12 articoli della Costituzione. Ora è stato cambiato il nono, quindi insomma è stata veramente fatta una cosa inedita, mai vista fino ad oggi. Però bisogna anche capire, cioè stare un po' attenti, mettiamola così, perché un cambiamento molto importante che se mal gestito potrebbe aprire la strada a modifiche non sempre così opportune. Quindi bisognerà stare attenti, come dici tu, ma raccontaci nel pratico che cosa significa questa modifica del testo costituzionale. Dunque, questa approvazione prevede la modifica della Costituzione dei due articoli che ti citavo, il 9 e il 41. Il 9, cioè il primo, si precisa che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, e questo era già così, ed è stato aggiunto che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse di future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. E questo è molto importante, sono delle aggiunte significative. Mentre l'articolo 41 dice che l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. A questo viene aggiunto anche alla salute e all'ambiente. È interessante ricordare che il testo iniziale prevedeva, Caterina, anche la tutela degli animali, ma ha riscontrato subito una decisa opposizione da parte di qualche gruppo trasversale di parlamentari, forse cacciatori, e quindi è stato stralciato. Ne intuiamo ecco, anche un po' le implicazioni mentre ce lo racconti, ma raccontaci anche l'importanza di questo voto, no? Eh sì, perché i fattori rilevanti di questa modifica sono vari. In primis, per l'ingresso ufficiale dell'ambiente e della biodiversità nella parte nobile della Costituzione. Abbiamo detto che i primi 12 articoli non si sono mai toccati fino ad oggi, con tutta l'importanza che questo comporta. E poi, perché con l'articolo 9 viene modificato anche il 41, ovvero l'iniziativa economica non deve avvenire a discapito della natura, e qua si apre un mondo. Infine, per come è ormai stato conosciuto assimilato anche il concetto di biodiversità, che è una parola, Caterina, che fino a pochi anni fa era considerato un termine per specialisti, nessuno la conosceva, i politici non la usavano. Ultimamente ne ha parlato anche il Papa nella sua enciclica sulla natura, Laudato Si, la cita il Presidente della Repubblica, insomma la usano moltissimo. A volte c'è da dire che si usa anche a sproposito, però. E quindi, oltre a usare parole nuove, tipo biodiversità, poi bisognerà passare effettivamente ai fatti concreti. E questa è la cosa sempre più difficile, no? Eh sì, è la cosa più complicata perché bisogna riempire di contenuti operativi e di risorse adeguate i settori che nel nostro paese si occupano appunto della gestione e tutela della natura. Dalla rete delle aree protette agli uomini e donne che sorvegliano il territorio rurale e il paesaggio, dagli animali agli ecosistemi, dalle zone costiere alla vetta più alta, insomma c'è tanto da fare, Caterina, e quindi ci vogliono risorse, persone che si impegnino in questo lavoro. Tematiche e situazioni che sino ad oggi sono sempre state considerate, diciamo, un corollario, un po' dei gadget, no? Degli elementi di contorno alle cose davvero importanti. Però pensa anche al forte valore simbolico che ha questo cambiamento. La Costituzione infatti non è solo un regolamento di competenza, ma è soprattutto e prima di tutto espressione della cultura di un paese e della sua comunità, ed è un messaggio e una guida per i futuri cittadini. Questo è molto importante. Però passando proprio al concreto, come mi avevi chiesto tu, occorrerà reinterpretare l'articolo 117 della Costituzione, che ripartisce le competenze tra Stato e Regione, la cui interpretazione ha consentito molti interventi regionali, per esempio in materia di rifiuti. Poi si dovrà ripensare il modello di governance nazionale in materia di ambiente. Dopo la soppressione del Ministero dell'Ambiente e la confluenza di tutte le competenze nel Ministero della Transizione Ecologica, o meglio energetica, appare necessario che vi sia un coordinamento da parte di Palazzo Chigi sulle questioni ambientali. E da un altro punto di vista, che anche l'attuale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che si chiama ISPRA, si è trasformato in una vera agenzia per l'ambiente, rendendola quindi pienamente autonoma rispetto al governo. Insomma, le situazioni sono impegnative, speriamo di arrivarci presto a questi cambiamenti. E per restare in ambito di natura, ascoltiamoci Angélique Kidjo, Mother Nature, che la canta poi con Sting, bellissima canzone. E non andate via, perché c'è l'intervista di Caterina a Chiara Giannelli, della redazione di Ne vale la pena. A dopo. Oh, never let them steal and take the best of you. Ben ritrovati di nuovo, sempre a tutte e tutti che ci ascoltate su Liberi Dentro di Radio TV. Proseguiamo già da due giorni la nostra chiacchierata con Chiara Giannelli della redazione online del Carcere della Dozza. Ne vale la pena. Ciao Chiara e bentornata. Ciao, ciao. Una redazione che, come raccontavamo in questi giorni, è nata per dare voce a chi spesso non può averla e quindi voi rendete possibile il fatto che queste persone scrivendo possano essere letti anche all'esterno dalla cittadinanza di Bologna. Quindi vi ricordiamo, Facebook Ne Vale la Pena e anche Bandiera Gialla, dove ritrovate gli articoli. Ma una domanda fondamentale, Chiara, per me è il fatto della collaborazione con l'istituto penitenziario, cioè è la cosa base per fare attività all'interno, perché bisogna sempre interfacciarsi con il direttore, l'area pedagogica. Voi riuscite? Sì. Riusciamo, come anche in precedenza abbiamo detto, nelle puntate precedenti abbiamo detto, siamo in carcere, quindi siamo in carcere e dobbiamo essere molto consapevoli di essere in un sistema che ci richiede responsabilità e ci richiede di interfacciarci in modo corretto appunto con le figure istituzionali. Direi che questa collaborazione c'è. Ci sono stati anche dei confronti, la direzione conosce la nostra attività, devo dire in particolare l'area educativa è molto attenta all'attività che svolgiamo, anche perché per loro può avere anche un interesse dal punto di vista, è una brutta parola, però trattamentale, cioè nel senso nel seguire i percorsi delle varie persone detenute. L'esperienza in redazione è anche ritenuta significativa probabilmente dal punto di vista appunto trattamentale. C'è un educatore di riferimento che ci segue, con cui mi interfaccio, ci interfacciamo direi abbastanza costantemente, e quindi questo, e a cui mandiamo anche gli scritti prima della pubblicazione. Dal punto di vista del rapporto con gli agenti penitenziari, con la polizia penitenziaria, c'è collaborazione, loro ci seguono proprio a vista mentre lavoriamo in area pedagogica. Se ci sono cose su cui confrontarsi, normalmente lo facciamo senza grossi problemi. Ecco, quindi questo è, insomma. Leggo su Bandiera Gialla, dove ci sono anche riportati i nomi dei vostri redattori, che molti sono anche persone che si stanno laureando o che hanno perseguito un percorso di studi. Quindi volevo chiederti se collaborare alla vostra redazione dà anche delle competenze spendibili all'esterno. Ecco, su questo bisogna essere molto realisti. Intanto sì, è vero, cioè noi abbiamo anche persone già laureate, perché magari se la sono portata la laurea dalla storia pregressa, oppure perché stanno studiando in carcere, che è una delle opportunità che in effetti l'istituzione offre. E quindi persone scolarizzate. E nel gruppo però noi non facciamo le selezioni, quindi entrano anche persone magari che hanno una storia diversa. Quindi intanto uno dei compiti del team di volontari è quello proprio di valorizzare l'eterogeneità del gruppo. E per noi non è semplicissimo, però valorizzare l'eterogeneità e valorizzare i contributi di tutti, perché veramente io dico sempre ai ragazzi nulla va sprecato. Concretamente, competenze. Io credo che le competenze spendibili non sono tanto sei diventato giornalista pubblicista, anche se è un'idea che ci piacerebbe coltivare, ma hai imparato delle competenze di base: esprimere un pensiero, confrontarti e scriverlo, scriverlo in modo che arrivi, tarando bene il messaggio. Quindi sono competenze molto di base, trasversali, che però sono, a mio parere, io penso così, utilissime. E quindi, se in questo momento ci stanno ascoltando delle persone che per la prima volta conoscono Ne Vale la Pena, soprattutto nella realtà intramuraria, e vorrebbero conoscervi, come possono fare? Ok. Purtroppo siamo a numero chiuso, per cui è normale, no? Non si può certo pensare che l'attività di redazione si possa svolgere, non so, in 50. Tanto più adesso, quando siamo rientrati, abbiamo avuto una riduzione della possibilità di coinvolgimento causa Covid, distanziamento, capienza massima degli ambienti. Quindi da 20 sulla carta i partecipanti sono stati ridotti, se non sbaglio, a 12 o 15, adesso non ricordo bene il numero. E anche noi volontari siamo stati contingentati come possibilità di entrare insieme. Quindi il Covid già ci sta limitando in questo. Abbiamo sempre avuto molta richiesta, forse la comunicazione informale in carcere, diciamo, funziona in questo senso, quindi molti richiedono di partecipare, deve essere fatta la classica domandina, ecco, che quindi è il modulo di richiesta. Abbiamo lavorato molto, aprirei una parentesi velocissima, sul linguaggio in carcere, su quanto il linguaggio in carcere sia infantilizzante, quindi si parla di domandina, Questo modulo di richiesta, che deve sempre essere compilato per qualsiasi cosa, anche per partecipare all'attività, e viene mandata all'educatore che poi lo vaglia. In realtà però adesso siamo full, quindi c'è una sorta di lista di attesa. Però poi l'avvicendamento c'è, qualcuno se Dio vuole esce, qualcuno magari poi manifesta di non essere più interessato, e quindi e l'educatore, devo dire la verità, anche chiede: c'è partecipazione? Se qualcuno si iscrive e non partecipa, poi lascia il posto a qualcun altro. Chiara, una delle sfide che si è aggiunta a ciò che fate per Ne Vale la Pena, quindi, e che però dimostra anche il vostro valore, è il fatto che voi non scrivete soltanto per Bandiera Gialla, ma anche per Messaggero Cappuccino, ma anche per Avvenire Bologna 7 e per Piazza Grande. Quindi come è stata recepita anche questa novità dai vostri redattori? Ma allora, sono contenti, molto contenti. È chiaro che un'altra cosa, ecco, che forse non ho ancora detto, c'è un grande orgoglio a vedere un proprio pezzo, per quanto ricucinato, pubblicato, no? Quindi davvero, insomma, è veramente per loro un riscontro importante, ok? Allora, che via via in questi 9 anni poi altre testate ci abbiano fondamentalmente cercato, oppure si sono create delle occasioni che non ci siamo andati a cercare, ma che sono arrivate. Allora, Messaggero Cappuccino ci ha appunto cercato, è una rivista francescana, molto bella a mio parere, che su cui lavoriamo ogni 2 mesi su un tema specifico, quindi lì il tema è dato. Avvenire, grazie anche al Cardinal Zuppi che ci è venuto a trovare in redazione, perché in redazione facciamo anche interviste, quindi abbiamo degli ospiti, e ci venne a trovare nel 2016, poi pensò di darci uno spazio sull'inserto di Bologna 7. Anche questo è molto bello, e anche lì dobbiamo cercare poi di adattarci al contenitore che ci ospita, no? Quindi anche questo è un esercizio, non siamo liberissimi, magari come su Bandiera Gialla. Dobbiamo imparare a, quindi, però anche questo è molto bello. Anche Piazza Grande, attraverso Bandiera Gialla, spesso ospita dei nostri pezzi. Quindi ancora complimenti, perché è la dimostrazione di un interesse anche allora da parte della cittadinanza a vedere pubblicate i vostri articoli, i loro articoli. Ci rivediamo domani, Chiara, per l'ultima intervista su Edu Radio con noi, ma non è l'ultima perché partirà anche una vostra rubrica a marzo, quindi siamo contentissimi anche noi di Liberi dentro Edu Radio. Grazie, ancora una pausa musicale, ci rivediamo tra pochissimo. Ciao Chiara! Ciao! Io lo confesso, sono un bandito fuori dall'ordine costituito. Mi hanno beccato giù alla dogana con 7 chili di marijuana. Come Gesù mi hanno condannato, non avevamo un buon avvocato. Lui ha patito sopra il calvario e io rinchiuso in penitenziario. Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, bestie schifose, i cani randagi. Si gela l'inverno ed estate si suda, siamo qui dentro per colpa di Giuda. Siamo qui dentro per colpa di Giuda. Cade mi ha detto cieco ti amo, fa un po' di grana che ci sposiamo. Con 7 chili nel mio furgone, puoi dirlo forte, sono un coglione. Come Gesù fu abbandonato, dopo 2 mesi lei mi ha piantato. Destino infame che si è compiuto, è stato un bacio che mi ha fottuto. Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, bestie schifose, cani randagi. Si gela l'inverno ed estate si suda, siamo qui dentro per colpa di Giuda. Non respiro, no, non respiro, devo uscire a fare un giro. Non respiro, no, non respiro, devo uscire a fare un giro. È pieno il mondo di criminali, di poliziotti, di tribunali, gente che è piena di buone intenzioni, che costruisce croci e prigioni, ma la galera non serve a niente, qui non imparo un accidente. Rieccovi, sempre dopo l'intervista alla nostra Chiara Giannelli, che ritroveremo anche domani. Vi annunciamo cosa segue, le nostre rubriche. Oggi che è giovedì abbiamo le pillole di Antigone che presentano il 6° rapporto sulla giustizia minorile con Keep It Real e i brevi podcast del rapper Kento. E poi a seguire Naufragi, idee di traverso, dove Elena dell'associazione La Piccola Carovana propone delle testimonianze di inserimenti lavorativi. Scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e come sempre io che sono Caterina con Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota e Paola Leotti vi salutiamo e ci ridiamo appuntamento a domani. Grazie. Liberi Dentro Edu Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.